musica. Vorrei dedicare ai ragazzi di Music Lovers la canzone. Oh. La canzone picchia, picchia, picchia, picchia. Oh. Perché come se lo picchiano loro, non lo fa nessuno. Oh. In che senso? Oh. Tano da Siracusa. Oh. Saluto gli amici del Bar Italia. Saluto gli amici. Pesa. Saluto gli amici. Muovete. Alessandro da Lucca. Ciao Gigi, perché non mi presenti la vocalist? Oh. Vorrei dedicarle Pigia Pigia, Eric da Castelfranco Veneto. Oh. Magari non ve ne siete accorti, ma il lento violento vi ha già travolti. Vi ha già travolti. Lento. Violento. Lento. Violento. Lento. Violento. Lento. Violento. Canzone in particolare che vorrei ascoltare. Dare. Ginnastica. Ginnastica. Mentale. Che vorrei ascoltare. Ginnastica. Ginnastica. Mentale. Mentale. Sì, sì, ho capito. Ciao. Da DJ Gaggio. Sono Luigi da Roma. Luigi da Roma. Luigi da Roma. Vorrei dedicare ginnastica mentale. Mentale. A mio figlio di 14 anni. Gigi, eh? Aiutami a studiare. Mettimi ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Sono Daniele da Vicenza. Vorrei ascoltare Mercatino e la vorrei dedicare al mio amico Luca, a cui piace moltissimo l'economia. Tiè. Roberto e Jennifer di Savona e ci siamo innamorati di una musica che passi ai live, la sirena. Eh? Ti supplico, passala anche nel cammino. Ti supplico, passala anche sul cammino. Su questo programma qua. E roba da capocciate vere contro il muro. Sono Deborah. Mettete unilaterale. Sì. La dedico a Roby, Eli, Cri, Roby, Cri, Eli, Roby. Ok, ci siamo tutti. Roby, Cri, Eli, Roby, Eli, Cri, Roby, Cri, Eli, Roby, Eli, Cri, Roby. Francesco e Marco da Casabona. Volevamo dirti che sei il nostro autista musicale. Sono Andrea da Udine. Vorrei dedicare a tutti i miei amici Techno Wants. Techno Wants. Techno Wants. per tutte le emozioni che mi hanno regalato. Ti aspetto al Vanilla. Ogni giorno alle 18 su M2O. Su M2O. Scrivermi il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662 333-64-67-662 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Sono Vanessa da Torino. Volevo dire ad Alan che lo amo tantissimo e che è la persona più importante per me. Sono Marta da Pisa. Volevo dire a Gabriele che lo amo ancora e che non faccio altro che pensare a lui, a tutti quei bellissimi momenti passati insieme. Arriva, Gigi D'Agostino! Sono Lorenzo da Pisa. Volevo dedicare On Eagle's Wings a tutti coloro che vogliono volare ad occhi aperti. Spettacolo, frate. Dwell in the shelter of the Lord. You abide in the shadow for life. Say to the Lord, my refuge, my rock, in whom I trust, and He will raise you up. Sono Rosa, mando un bacione a tutti. Fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica! Musica! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica che unisce! Gigi D'Agostino! Musica! Musica! Gigi D'Agostino! Musica che unisce. Questo è il cammino di me medesimo D'Agostino. Vorrei dedicare al mio amico Lasa, Lasa, Lasa. A cosa? Sputala. Sperando che finalmente si levi questa brutta abitudine. Ehi! Se volete scrivermi il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Sono Ferra da Poviglio e vorrei dedicare Rugiada alla mia Ire e le vorrei dire che la amo da morire. I, re, ti, re, amor, morire. I, re, ti, re, amor, morire. I, re, ti, re, amor, morire. Destino, il cammino di Gigi D'Agostino. Vorrei dedicare lo sbaglio a Gianmarco per dirgli che gli voglio un mondo di bene.

Dai un po'. Potresti suonare la tua versione di Moonlight Shadow? A voglia. Vorrei dedicarla a Tonino, che adoro e che ti adora. Bravo. Un beso, Ida da Torino. Venirmi a trovare questo fine settimana in discoteca. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questo sabato alla discoteca Max Bressanone, Bolzano. Domenica pomeriggio 8 ottobre. 8 ottobre. Ce la puoi fare? Alle 15 Gigi D'Agostino sarà a Vicenza, discoteca Nord-Est, Caldogno. Preciso. Torniamo indietro nel tempo. Gigi, dedicaci Star. I ragazzi di Giurisprudenza, Torino. Oh. distanza con i tuoi sogni. Ieri è nato mio figlio. Ringrazio per tutto mia moglie Paola. Ti amo. Sono Francesco da Cagliari. Metti quello che vuoi, ma di a Miriam che è in viaggio con me verso Genova, che è la mia vita. E adesso dopo glielo dico. Sono Chiara. Io e il mio ragazzo, Domenica, abbiamo fatto 1 anno e 2 mesi. Sti cazzetti. Ci fai sentire una delle tue fantastiche canzoni? Certo. B. Ti amo da morire. Like a river that opens the sea, this is the way that it has to be. Di Vicenza. Verrò al nord-est. Yippie! Gigi, non posso mancare a vedere il re che suona. Sì, sì. Puoi suonare The Rain? Sì. La dedico a Mauro. I wanna live by your side, wanna be with you all day and night, cause I need to hold you. I wanna be Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi, ti prego, per un attimo riportami indietro nel tempo con la tua magica astronave musicale. Ma ciao proprio, una salutata generale qua. Per me la tua musica è una strada che posso percorrere in ogni istante. Baci, Maria. Bella, molto bella. Mani al cielo per questo brano. colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Me la mixata, va. Voglio mandare un saluto alla cosa più bella che può capitare ad un uomo: i suoi bambini e sua moglie. È vero, è vero. Roberto da Lucca. Ciao Betta, sono Franco. Anche se non provo più niente per te, ti voglio bene. Questo per me è importante. Che sentieri percorriamo tutti insieme ogni giorno alle 18. Che mondo è? Che storia è? Di Gigi D'Agostino. Qua c'è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Spettacolo, frate. Sono Leonardo da Terni. Vorrei dedicare Taurus a Tamara, il mio amore. We'll be right back. vorrei dedicare Elisir al mio carissimo amico Luigi, che da poco ha compiuto gli anni. Ogni volta che la sente, va in estasi. Gigi, pon por favor l'Elisir. Che dici? Pon por favor l'Elisir. Se la dedico a todos mis amigos. Un beso. Luis Garcias. Luis Garcias. Luis. Io e la mia squadra ci stiamo chiedendo se ci metti la tarantella dell'orso. Ovvio. Tarantella dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso, dell'orso. La cosa. Dai che bo. Potete mandare le vostre dediche, il numero di SMS è 333 333. Ma che sta a fare? Ma che sta a giocare qua? Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri SMS è il seguente: 333 64 67 662. Via questo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Gigi D'Agostino vi saluta tanto tanto tanto tanto.